un'idea, forza segui me. Tu gli snorchi incontrerai su Segui Me. Dai dai! È Super Stellino, grande capo, che con Bollicina è fidanzato. Tu li vedrai qui giocare e poi ballare. Timido è Lucetto, ma Frizzina piace e le piace stare insieme a lui. Con un tuffo tu starai là nel mare blu e gli snorchi sentirai canticchiar laggiù. Io so che qui sott'acqua la città degli snorchi sta. Oggi è bassa la marea e bel tempo c'è, e perciò io ho un'idea, forza segui me. Tu gli snorchi incontrerai su Segui Me. Dai dai! Il governatore è cattivo e così anche il figlio che è ciuffino. Tu li vedrai, vogliono tutto rovinar. Ricciolo allora li sconfigge ancora e così quei due la smetterà. Con un tuffo tu starai là nel mare blu e gli snorchi sentirai canticchiar laggiù. Io so che qui sott'acqua la città degli snorchi sta. Oggi è bassa la marea e bel tempo c'è, e perciò io ho un'idea, forza segui me. Tu gli snorchi incontrerai su Segui Me. Dai dai! Batman. sei proprio un gran simpaticone. Per strada assieme a te sei tu che porti me, e non so più chi di noi due è il padrone. Corri dietro i tram per la città, e mentre grido a squarciagola tu abbaiando corri ancora. Questo parapiglia non si fa, no no no no no, non si fa, lo sai Beethoven non si fa. Beethoven resta qua e non andar di là, a mordicchiare tutte le ciabatte. Non farlo offeso dai, perché anche tu lo sai che sei il campione delle malefatte. Non rompere a metà le penne di papà e non giocare con le sue cravatte. Non strappare le tasche del gilet e non mangiare più i bottoni di camicia e pantaloni. Tutto questo proprio non si fa, no no no no no, non si fa, lo sai Beethoven non si fa. No, Beethoven Belzebù, non t'azzardare più ad assaggiare l'arrosto della cena. È inutile che tu stia con le orecchie giù, perché cagnone mio non mi fai pena. L'arrosto col purè, lo sai, non è per te, sei grande e grosso come una balena. Hai trangugiato un chilo di vignè e poi ridotto la tovaglia come un campo di battaglia. Questo finimondo non si fa, no no no no no, non si fa, lo sai Beethoven non si fa. Beethoven solo tu, accendi la TV, le cambi i tasti del telecomando, poi salti sul sofà e la pubblicità la guardi assieme a noi scodinzolando. Durante i telefilm del grande Rin Tin Tin ti aggiri per la stanza saltellando. Quando appare un gatto e senti miau, allora inizi ad abbaiare, non la smetti di ululare. Questa baraonda non si fa, no no no no no, non si fa, lo sai Beethoven non si fa. Beethoven io non so se un giorno riuscirò a farti diventare più ubbidiente. Per ora sei così birbante notte di, e ai miei comandi resti indifferente. A volte per pietà tu mi ubbidisci, ma mi fai capire che non conto niente. Prendi sempre quello che ti va e sei il più grande attaccabrighe fra i tuoi amici del cortile. Questa confusione non si fa, no no no no no, non si fa, lo sai Beethoven non si fa. No, Beethoven resta qua e non andar di là a mordicchiare tutte le ciabatte. Non farlo preso dai, perché anche tu lo sai che sei il campione delle malefatte. Non rompere a metà le penne di papà e non giocare con le sue cravatte. Non strappare le tasche del gilet, non mangiare più bottoni di camicia e pantaloni. Tutto questo proprio non si fa, no no no no, no non si fa, lo sai Beethoven non si fa. Beethoven Belzebù, non t'azzardare più ad assaggiare l'arrosto della cena. È inutile che tu stia con le orecchie giù, perché cagnone mio non mi fai pena. L'arrosto col purè, lo sai non è per te, sei grande e grosso come una gara. più temerario. C'è una forza che tu senti sempre di più quando lanci Dragoon contro il suo avversario. Mostra il tuo talento, ma stai attento perché non c'è tregua per te. Take the challenge, my friend, questo è il tuo momento. Nei Beyblade c'è la potenza di un ciclone, nel tuo cuore c'è la grinta di un campione. Beyblade, boy, play, che gara c'è? Let's play the game, dai, tocca a te. Vincerai, vincerai questo incontro se combatterai. Boy, play, play, play, che carica, it's all ok, è magica. Oramai tu sei pronto, ora sai com'è tuo. Play, play, play, play, boy, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, sogni già qui. You're a teenager free, giochi il tuo mondiale. Nei Beyblade c'è la potenza di un ciclone, nel tuo cuore c'è la grinta di un campione. Beyblade, boy, play, che gara c'è? Let's play the game, dai, tocca a te. Vincerai, vincerai questo incontro se combatterai. Boy, play, play, play, che carica, it's all okay, è magica. Anche la sua Turtles, Mutant Ninja Turtles. Con noi ci sono quattro tartarughe ninja che hanno un coraggio speciale. Se c'è da lottare, loro lotteranno, loro vinceranno per noi. C'è Raffaello, vero mago dei roller, e Michelangelo che vola con il suo skate. C'è Donatello che è un genio, si sa, Leonardo le guiderà. Sono tornati il male trema di già, con loro c'è il maestro Splinter che condurrà i ninja Turtles, Mutant Ninja Turtles. Purpureo attacca, il clan del piede coi suoi ninja minaccia New York. Arriva il perfido Dottor Stockman con uno dei suoi robot. Ma loro sono unite senza paura, nessuno mai potrà fermare l'arrivo dei ninja Turtles, Mutant Ninja Turtles. Da lottare, loro lotteranno. cuore che si illumina d'amore. Caspe, daba daba di Casper, un lenzuolo bianco bianco che sorvola tutta la città. C'è un fantasma che vola qua e vola là. C'è chi certamente griderà, ma quel povero fantasma che forse c'è o forse non c'è, per quel grido si spaventerà. Buffo e sorridente, ma più timido che mai, qualche volta è anche trasparente. Piccolo e obbediente, ma chissà poi come mai, troppo spesso in me. Dispo, dispo è sempre in volo. Casper, daba daba di Casper, un amico eccezionale, imprendibile e leale. Casper, tu passi attraverso le pareti, così conosci tutti i miei segreti. Simpatico fantasma, la tua casa dov'è? Conan, che Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Oh, oh, oh. Dove sta? Dragon! Se chiudi gli occhi, anche il sole brilla più. Goku, lo sai che gli arriverai. Go, go! Dragon Ball GT, siamo tutti qui. Non c'è un drago più super di così. Dragon Ball perché ogni sfera è la magia che risplende in te. Dragon Ball GT, it's for you and me. In a world that wants really to be free. Dragon Ball chissà come finirà. E alla fine chi vincerà? Oh, oh, miau! Pronto, maestro? Viva! Flick! Stravaganza, so l'importanza di questo nome, come pure del cognome che assomiglia a un soprannome. Miau! Signorina, miau! Flick, stravaganza, oh, io lo posso, mi sto di canto, e poi piace proprio tanto a una miccia che è uno schianto. Mi ama, mi ama, d'altronde sono bello che ti posso fare. Mi ama, mi ama, mi ama, per sempre. Mi ama, la mia rotondità l'ha fatta in fiato, mi ritrovo calpestato senza pelo immaginato. Flick, stravaganza, qui c'è una danza meravigliosa di una miccia deliziosa che mi vuole bene, aiuta. Stra stra stra stra, d'altronde sono bello che ti posso fare. Mi ama, mi ama, e mi ama. La mia rotondità l'ha fatta innamorare. Davvero mi ama e mi amerò. Questa ragazza, questa ragazza, questa ragazza, con l'amor mi dannerà. Questa ragazza, questa ragazza, è abbastanza, sia di sciaghi, sia di piedi. Sciarchi, dammi una mano! Piaccio proprio tanto a una micciona cicciottella e bella. Mi ama, mi ama, d'altronde sono bello che ci posso fare. Mi ama, mi ama, e mi amerà per sempre. Mi ama, mi ama, la mia rotondità l'ha fatta innamorare. Mi ama, mi ama, e mi amerà. Hey, you know what you're doing? gladiatori. Là nell'antica Roma, per questo quel torneo, lottavano gagliardieri soliti al Colosseo. Robusti e valorosi, più forti dei cowboy, avevano uno stuolo di tifosi. E proprio come ora, i divi dello sport facevano una vita super snob. Però non era facile raggiungere the top, e più di un gladiatore finiva KO. Per arrivare in cima senza avere mai uno stop, dovevi iscriverti all'Academy. Scuola di gladiatori per i più coraggiosi, dove si è coccolati come una star. Equipaggiati di novità e poi pagati proprio come un marascià. Questa è la scuola di gladiatori, contratti vantaggiosi in nome dell'onore di chi li fa. Sarà il migliore che vincerà. Esulta già lo spettatore, questa gara fra campioni inizierà. Per arrivare in cima senza avere mai uno stop, bisogna iscriversi all'Academy. Scuola di gladiatori per i più coraggiosi, dove si è coccolati come una star. Equipaggiati di novità e poi pagati proprio come un marascià. Questa è la scuola di gladiatori, contratti vantaggiosi in nome dell'onore di chi li fa. Sarà il migliore che vincerà. Esulta già lo spettatore, questa gara fra campioni inizierà. Quattro campioni, protagonisti, mille emozioni, mille impreviste. Che gladiatori e che torneo, esplode un tifo senza fine al Colosseo. Questa è la scuola di gladiatori, contratti vantaggiosi in nome dell'onore di chi li fa. Sarà il migliore che vincerà. Esulta già lo spettatore, questa gara fra campioni inizierà. C'è chi lotterà per difendere la libertà, ferita dai malvagi servi dell'oscurità. A difendere il castello c'è una spada buona, un principe, un segreto rivelato solo dalla luce. Faccia scheletro, vorrebbe diventare il tiranno unico. Coi fedeli servi attaccherà per sconfiggere la libertà. Ma c'è un uomo ed una spada che dovrà affrontare.